La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali alla Rosa Purpurea, al nostro weekend di cinema su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. La nostra sigla vi introduce come sempre nell'ora di cinema settimanale di Radio 24. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui titoli più importanti, tre in particolare di quelli che arrivano nei fine settimana e nelle sale cinematografiche italiane. Ma in questa puntata avremo anche la possibilità di ascoltare un grande ospite, un regista che ha firmato titoli importantissimi nella storia del cinema come Jonathan Demme, che abbiamo incontrato a Milano e che ha rilasciato alcune dichiarazioni solo per i nostri ascoltatori. E allora tutti i contenuti della nostra trasmissione nei titoli di testa. Un po' di Hitchcock, un po' di Fritz Lang. Arriva nei cinema italiani La pelle che abito, il nuovo film di Almodóvar che, pur con esiti non sempre convincenti, mette in scena una situazione surreale e indaga sul tema dell'identità attraverso il vestito che ci ricopre tutti, il nostro organo più esteso, la pelle. E ritrovando anche un vecchio amico, Antonio Banderas. I bambini da svegliare, lavare, portare a scuola, il lavoro che pressa e poi la spesa, la casa, la cucina. Ma come fa una donna a far tutto? Se lo chiede il titolo della commedia con Sarah Jessica Parker, donna in carriera, in perenne equilibrio fra le sue numerose funzioni. Un'istantanea sulla vita di molte donne lavoratrici dei nostri tempi. Ma sarà proprio così? Un giorno dell'anno 3978, tre astronauti caddero sulla Terra, provenienti dallo stesso pianeta dal quale i Bernati erano partiti più di 2000 anni prima. La trovarono popolata da scimmie superintelligenti che avevano scavalcato l'uomo nella scala gerarchica e sociale. È la trama del primo mitico pianeta delle scimmie. Ora arriva nelle sale il prequel, L'alba del pianeta delle scimmie, per capire come tutto ciò è potuto accadere, con James Franco e Freida Pinto. Un filmmaker allegro, ma non troppo. La Rosa Purpurea incontra Jonathan Demme, il regista di capolavori come Il silenzio degli innocenti, Philadelphia e Rachel sta per sposarsi. E lui, Jonathan il Gentile, ci racconta i suoi progetti, un film d'animazione e uno tratto dal prossimo libro di Stephen King. E allora, questo è il menu, più ricco del solito, anche un po' più lunghi del solito i nostri titoli, ma insomma c'era bisogno di spiegare quello che state per andare ad ascoltare. Noi cominciamo con i film, come sempre, con l'attualità. Non mancherà ovviamente la possibilità di giocare insieme con i film più belli in Blu-ray in palio per i nostri ascoltatori. E allora, abbiamo sentito le donne, i loro mille mestieri, la loro capacità di unire lavoro, famiglia, casa, se stesse, e un romanzo uscito qualche tempo fa che ha venduto oltre 4 milioni di copie, ovvero proprio ma come fa a far tutto? Questa era la domanda che campeggiava nel titolo dell'omonimo romanzo, che adesso è diventato un film. Noi ci chiediamo con quali risultati e anzi lo chiediamo alla nostra Chiara Pizzimenti. Secondo uno studio recente, le donne che hanno figli piccoli non dormono mai una notte intera. I ricercatori non sono riusciti a spiegarne il motivo. Potevano chiedere a me. Invece di dormire, faccio la lista. Primo, portare Emily a scuola. Secondo, cercare di non farsi mettere sotto al lavoro. Terzo, passare più tempo con Richard. Quarto, i bambini. Come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? E questo è solo un assaggio della vita di Kate Reddy, Sarah Jessica Parker, moglie, madre, donna in carriera nell'alta finanza che cerca di tenere tutto in equilibrio, asilo, feste, cene romantiche, viaggi di lavoro. Un equilibrio che diventa sempre più precario quando arriva un cliente nuovo e affascinante. Lo interpreta Pierce Brosnan. Jack Bellhammer, il nostro nuovo cliente, vuole conoscere di persona chi si sta occupando dei suoi fondi. Oh, Dio, scusi! Da quanto tempo è qua? Già da un po', ma continui. E se deve sistemare anche qualche altra cosa. È un bel passo avanti per te. I tuoi figli potranno passare tanti bei momenti di intimità familiare. Con la tata. I sensi di colpa non si contano nella vita di Kate. Tutti le chiedono come fa a far tutto. Lei dice sempre sì, per non mancare in niente. Amo il mio lavoro, anche se alcune volte mi sembra di amarlo veramente troppo. È chiaro, ti mancano i tuoi figli. Devi partire stanotte stessa. Non possiamo continuare così. Non devi mollare, Kate. Non sogni mai di non dover più fare la lista delle priorità ogni giorno. Vedi, senza quel lavoro, io non sono più io. Ma senza te, bene, Emily, io non sono niente. L'abilità del giocoliere non sta nella presa, ma nel lancio. Kate ha lanciato troppo in alto. Non basta più fingere di aver fatto una torta comprata invece in pasticceria. Qualche birillo cade. L is for the way you look at me. Cercare di essere un uomo vuol dire sprecare una donna. Ci vuole insegnare questo la commedia tratta dall'omonimo bestseller della scrittrice gallese Alison Pearson, sceneggiata da Aline Brosh McKenna, già autrice del Diavolo Veste Prada. Svolto in appena un'ora e mezza, il tema è indubbiamente attuale. Le domande che si pongono e le situazioni proposte sono realistiche. Gli intermezzi con commenti dei personaggi sono simpatici, ma si esce dalla sala, quasi tutta occupata da donne, con la sensazione che non sia nulla di più di una favoletta, con la Carrie di Sex and the City che corre abilmente sui tacchi. La realtà è ben altra e il finale, ovviamente lieto come da commedia che si rispetti, è poco più di una speranza. Sono a casa. Sono a casa. L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi, uomini, l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti! Era finito così, con un'imprecazione contro tutta l'umanità che aveva distrutto la sua civiltà, il primo mitico capitolo della saga del Pianeta delle Scimmie. Era il 1968 e a pronunciare queste parole era l'astronauta Taylor, interpretato da un vigoroso Charlton Heston, che in piedi, davanti alla Statua della Libertà spezzata e semisommersa, lanciava i suoi strali contro gli uomini e la loro brama di potere, che aveva sovvertito, 2000 anni dopo, l'ordine delle gerarchie fra i primati della Terra, prima le scimmie, che comandavano, poi gli uomini soggiogati ai voleri degli scimpanzé. Come sia andata a finire quella saga lo sappiamo tutti. 5 film, miliardi di incasso, 10 anni fa, poi il remake firmato da Tim Burton e ora il prequel, L'alba del pianeta delle scimmie. Per rispondere ad alcuni quesiti, come si era arrivati a questo? Da dove era arrivata la navicella dalla quale Taylor e compagni erano sbarcati sulla Terra del futuro? E soprattutto, come avevano preso il sopravvento le scimmie? Cominciamo. Vi presento Scimpanzé 9. La terapia genica permetterà al suo cervello di creare cellule proprie per autorigenerarsi. La definiamo la cura per l'Alzheimer. Will Rodman è un giovane ricercatore idealista che sta mettendo a punto una cura per l'Alzheimer per conto di un'industria farmaceutica. Una missione più che un lavoro, visto che il padre di Will è affetto da quella malattia. Per ottenere un farmaco efficace, Will conduce degli esperimenti sulle scimmie. Una di queste, trattata con il ritrovato sperimentale, mostra un quoziente intellettivo nettamente superiore. Ma quando tutto sembra andare verso l'allargamento della sperimentazione, lo scimpanzé dà di matto e spacca tutto. Decisione del boss: abbattere tutte le scimmie. Ma una di queste sfugge alla mattanza, è il cucciolo della scimmia superdotata. Will se lo porta a casa in incognito, lo chiama Cesare e con lui prosegue i suoi esperimenti. Oh, è furbetto lui. Casa. Ha imparato il linguaggio dei segni? Soltanto poche cose. Cesare mostra capacità cognitive che eccedono di gran lunga quelle di un suo omologo umano. Il farmaco nel suo sistema ha radicalmente incrementato un sano funzionamento del cervello. 5 anni dopo troviamo Cesare, così bello, forte, giovane scimpanzé dall'intelligenza ormai paragonabile a quella del suo padrone. Si muove con agilità fra le cose domestiche, conosce il linguaggio dei segni, e questo sarà molto importante nel film, è affettuoso e protettivo nei confronti del padre malato di Will. Ma quando la natura chiama, Cesare non riesce a contenere naturalmente la sua innata aggressività di primate. Per questo Will lo porta in un centro apparentemente specializzato, in realtà si tratta di una sorta di ghetto per scimmie, di prigione, da dove gli esemplari vengono venduti proprio alle case farmaceutiche per gli esperimenti. È lì che Cesare, sfruttando la sua intelligenza, organizza la rivolta delle scimmie per riprendersi il pianeta Terra. Non ha mai vissuto con altri scimpanzé. Devi restare qui, non andremo a casa per ora. Guarda chi c'è. Si crede speciale? Stupida scimmia. Imparerà presto chi comanda. Non sapete con chi avete a che fare. L'evoluzione diventa rivoluzione, un motto che ben si adatta a riassumere il film quanto a descriverlo. In effetti ha una prima parte in cui si descrive la situazione personale, familiare e sentimentale del ricercatore Will Rodman, interpretato da James Franco e fidanzato nel film con Frida Pinto, la ragazza di The Millionaire. Il regista britannico Ruben Wyatt ne fa seguire una seconda d'azione che cita Spartacus e racconta la rivoluzione delle scimmie. Una seconda parte che cambia anche protagonista, essendo totalmente incentrata sullo scimpanzé Cesare, dietro le cui sembianze si cela Andy Serkis, specializzato in personaggi antropomorfi, visto che era già il Gollum del Signore degli Anelli. L'interpretazione di Andy Serkis è davvero un miracolo di performance capture, la tecnologia che permette al regista di far recitare un attore vero e poi ricoprirlo delle sembianze del personaggio, in questo caso i peli delle scimmie. Un lavoro che l'attore racconta così. Credo che Cesare sia il simbolo dello sforzo per capire la responsabilità di detenere il potere, il che lo rende davvero un personaggio interessante. Lui non intende dominare l'uomo o la sua specie. Al contrario, lotta per la democrazia. A mio avviso, il tema dell'intero film è l'empatia. È importante che il personaggio di Cesare sviluppi un'intelligenza emotiva. Il film non intende prendere posizione né a favore delle scimmie né dell'uomo. Non solo è una scimmia straordinariamente intelligente, ma diventerà anche capace di empatia, essendo dotata di una sensibilità incredibile. Credo che tutti i grandi leader possano trarre ispirazione da Cesare. E questo era quindi Andy Serkis. Abbiamo parlato dell'Alba del pianeta delle scimmie, promosso questo prequel della famosa saga che si candida anche in questo caso a posizioni alte della classifica nel weekend. È arrivato il momento di giocare, è arrivato il primo momento di giocare, lo facciamo questa settimana con un film davvero clamoroso e che è diventato subito un classico del cinema americano. Ascoltiamo la prima clip. E così mamma lavora ancora in fabbrica e io lavoro part-time in un salone di bellezza, come parrucchiera, sai? Ti ricordi Ram Gonzalez? Il padre aveva quella bottega di barbieri, è il suo locale. Mamma mia, che indizi che vi abbiamo dato, buonissimi i nostri selezionatori oggi e molto molto gentili per farvi capire di che film si tratta e la cosa che dovete indovinare. Scrivercela alla Rosa Purpurea @radio24.it includendo, vi raccomando sempre, il vostro indirizzo privato per agevolare poi le spedizioni in caso abbiate vinto. Ovviamente più tardi ci saranno ancora due possibilità per partecipare al nostro game. También quiero el azul del cielo en el mar. La pelle e che voce la racconta, il nostro organo più esteso, il vestito che ci copre, che ci identifica, che può segnare la nostra vita a seconda magari della sua pigmentazione. La pelle, così importante e così sottovalutata. Il chirurgo plastico Robert Legard, protagonista della Pelle che abito di Pedro Almodovar, ne ha fatto un'ossessione da quando sua moglie è bruciata nel rogo della sua auto. Da allora Robert vive e lavora giorno e notte nei laboratori alla ricostruzione di una pelle artificiale che abbia caratteristiche anche migliori di quella naturale: morbidezza, lucentezza, sensibilità alle carezze. Tirami la chiave della porta, fuori terra! Se sigues bajando, me corto el cuello, se te acabo el juguete. Non eres capaz. Solo che il dottor Legard non è uno normale e non fa parte di una famiglia normale. Almodovar ce lo dice subito, ci inquadra un'enorme stanza arredata solo da un divano e poche suppellettili, dove un sinuoso e inguainato corpo femminile compie le improbabili evoluzioni dello yoga. È il corpo di Norma, bellissima, aggraziata e sotto chiave. A far la guardia nella casa del dottor Legard c'è la vecchia madre. Scopriremo che Legard ha una figlia due volte disturbata dalla morte della madre, che non sopportando il suo corpo da grande ustionata si era gettata nel vuoto, atterrando proprio davanti ai piedi della bambina, e da un'attentata violenza non consumata che ha mandato su tutte le furie il padre. In un viaggio a ritroso, fatto di flashback e di ritorni all'oggi, scopriremo chi è Norma e come il dottor Legard, novello Frankenstein, abbia plasmato il suo corpo a suo piacimento e soprattutto, vero tema centrale del film, scopriremo perché. Almodóvar al cubo, questo è il commento sintetico al nuovo film del grande Pedrito, un film freddo, un meccanismo a orologeria che non lascia spazio ai sentimenti, tanta è la brama di controllo del suo artefice, che in questo caso è un po' Frankenstein come il dottor Legarde interpretato dal figliol prodigo Antonio Banderas, tornato alla corte del suo padre cinematografico 22 anni dopo Legami. E allora sentiamo Antonio Banderas raccontare questo suo ritorno alle origini. Volver al riconoscimento di che forma parte dell'universo Almodóvar. L'universo Almodóvar fa parte della mia vita, per quello che ha significato all'inizio della mia carriera cinematografica, e il fatto di lavorare con lui rappresenta una continuazione della mia vita. È quasi come tornare al mio paese, con tutta la sua grandezza, le sue contraddizioni e tutto quello che comporta. È come sentirmi a casa. Questo significa per me tornare a lavorare con Almodóvar, tornare a casa mia, una casa dove mi sono creato artisticamente. C'è anche la riconoscenza non solo verso di lui, ma anche verso attori come Marisa, con cui abbiamo fatto tante cose insieme in passato. Abbiamo abbattuto molte barriere, fatto molte cose nuove, cose che oggi possono essere considerate come dei classici dell'industria cinematografica spagnola. Come dicevamo, un film freddo, anche esteticamente, il che rappresenta l'evoluzione continua del cinema almodovariano. E per rappresentare la freddezza non c'è di meglio del vestito di un thriller, genere dal quale il regista di Ciudad Real si sente sempre più attratto. Ultimamente io ho ido passando a lo largo della mia vita. Ultimamente nella mia carriera ho vagato per differenti generi. Ho iniziato con la commedia, ho proseguito con il melodramma, ma il thriller è il genere che probabilmente mi dà la possibilità di mescolarlo con altri generi, perché sono incapace di ripetere le regole dei vari generi. Credo che uno non possa realizzare un genere come il thriller, il musical, il melodramma, con la stessa innocenza con cui si facevano negli anni 50. Oggi il thriller è il mio genere preferito e non so quale sarà il prossimo film che farò, anche se lo sto già scrivendo. Ma è chiaro che tornerò ad esercitarmi in questo genere. Di fatto, quando cercavo referenze per scrivere questo ultimo film, ho analizzato tutto il terrore cinematografico e la parte che mi interessò di più fu il thriller degli anni 40 di Fritz Lang, e sono stato tentato di orientare il film nel suo stile, che includeva il cinema muto e i meravigliosi thriller del cinema americano. La trama non è conforme del tutto allo stile di Fritz Lang, ma questa è stata la mia tentazione iniziale. E devo dire una cosa che non ho detto a nessuno seduto qui a questo tavolo, che nei primi mesi sono stato tentato di fare il film in bianco e nero, e anche muto, per avvicinarmi a questo stile. Poi non l'ho ritenuto opportuno e ho deciso di non procedere in questo senso. Lo incontrei appropriato, entonces bueno, seguí mi propio camino. Abbiamo detto di Banderas, nei panni di Vera, di Norma, scusate, invece c'è la sua creatura, la schiava, doveva esserci la musa Penelope Cruz, che però ha rinunciato, ed ecco così la bella Elena Anaia. Perfetto materiale malleabile nelle mani di Re Pedro. La pelle che abito è tutt'altro che un film senza difetti. Qua e là la trama si sfilaccia un po', alcune scene sono girate in maniera un po' banale, un po' approssimativa. Più che un film perfetto, quindi un film perfezionista. Ma come da tradizione di Almodóvar, un film che rimane, anche nei giorni che seguono la visione. Perché Almodóvar è uno dei più grandi creatori di immagini del nostro tempo, è uno di quei registi in cui più evidenti sono le influenze delle altre arti figurative, in questo caso per esempio della danza di Pina Bausch o delle sculture di Louis Bourgeois. Storia di vendetta, di manipolazione, la pelle che abito ha al centro in realtà il tema dell'identità, immutabile anche quando perfino il nostro corpo cambia anche radicalmente. A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming song. But wait a minute, something's wrong. Sulle note di questo brano così famoso, così celebre, ma nella versione della colonna sonora, sono i titoli di testa di Una vedova allegra ma non troppo, noi introduciamo Jonathan Demme alla Rosa Purpurea. Allora, Il grande regista di Qualcosa di travolgente, di Philadelphia, The Manchurian Candidate, ovviamente del Silenzio degli Innocenti e di tanti altri film che hanno fatto il giro del mondo, è passato a Milano durante la settimana scorsa, ospite del Milano Film Festival, nel quale ha mostrato il suo nuovo film Neil Young Journeys, tutto dedicato al grande, grande re del country e del country rock, appunto Neil Young. Quindi uno sforzo musicale, un documentario musicale, anche se poi sentirete Jonathan Demme parla proprio di cinema allo stato puro. Jonathan Demme, abbiamo detto, ha firmato film davvero di grandissimo impatto e che sono rimasti perennemente nella storia del cinema, ma nel nostro incontro ci ha raccontato anche alcuni dei suoi nuovi progetti, e sono molto molto interessanti perché coinvolgono altri nomi fondamentali della scena culturale americana. Il primo su tutti, mi sembra di poter dire, è quello di Stephen King. E allora cominciamo a sentire le frasi, le dichiarazioni che ci ha rilasciato Jonathan Demme, partendo proprio dal film su Neil Young e da questa sua passione per il cinema e la musica. Big thing for me is that I feel that Per quanto riguarda me, io posso dire che ho due grandi passioni. Una è il cinema, l'altra è la musica, e il mio entusiasmo si accende per entrambi. E quando ho la possibilità di vivere queste due passioni e di sposare il cinema e musica, l'entusiasmo va alle stelle, visto che per me la forma di cinema più pura e più alta si crea con la possibilità di realizzare un film sulla musica o su un musicista, perché si instaura un rapporto davvero magico con queste due passioni. Naturalmente ci sono anche altre ragioni. Per esempio, nel caso di Neil Young, molto ha a che vedere con l'emozione che suscita in me la sua musica e il suo percorso musicale. Invece, riguardo al film sui Pearl Jam di Cameron Crowe, che ho appena visto, si tratta più di un documentario che non di un film concerto, ma l'ho trovato estremamente toccante, mi è molto commosso, e credo sia stata per me una grande fonte di ispirazione. È veramente un lavoro importante, che mancava e che è stato giusto fare. Capisco perché il regista abbia avuto il desiderio di farlo. Vorrei aggiungere che nel corso di quest'anno è probabile che io mi rechi a Napoli per realizzare un lavoro su Enzo Avitabile, che io ritengo un grande musicista italiano e che amo molto. Per cui dovrebbe esserci un progetto a Napoli. You know, I love him so much and I think we're gonna do something. Ti dà fastidio questa musica? Ti piace l'opera? Io non ho molta familiarità con l'opera, Andrew. Oh. Questa è la mia aria preferita. È Maria Callas. E quello che sentite in sottofondo, l'avrete riconosciuto, è Tom Hanks in questo straordinario film che era Philadelphia, Denzel Washington accanto a lui, Antonio Banderas, Corsi e ricorsi, proprio nella settimana della sua uscita col film di Almodovar. Era il cast di Philadelphia. Siamo andati avanti con Jonathan Demme per parlare appunto di un capolavoro del suo cinema, ovvero Il silenzio degli innocenti, che è probabilmente il film che più lo contraddistingue, che quasi ne ha fatto un regista, almeno in un certo periodo, un regista da cui ci si aspettava poi sempre un thriller. In realtà, come avete visto, la sua filmografia è veramente varia e variegata anche, e quindi i generi li ha un po' attraversati tutti, ma quel film con Anthony Hopkins e con Jodie Foster fu il marchio che lo esportò in tutto il mondo. E allora ancora oggi rimane un classico, Il silenzio degli innocenti. La cosa che ci siamo fatti raccontare è come sia arrivato Jonathan Demme alla scelta di Jodie Foster. Non fu una scelta facile e non fu nemmeno la prima scelta. I had just finished Married to the Mob with Michelle Pfeiffer. Io avevo appena finito di lavorare con Michelle Pfeiffer in Una vedova allegra ma non troppo, e come spesso mi accade con le persone con cui lavoro bene, mi viene subito il desiderio di ripetere l'esperienza, e quindi la prima scelta è stata lei. Inizialmente Michelle aveva accettato, mentre Jodie Foster spingeva per avere la parte, ma di seguito Michelle si rese conto che per la sua sensibilità era un soggetto troppo cupo, e quindi non se l'è sentita di interpretare quel ruolo. Meg Ryan è stata la mia seconda scelta, ma ha subito trovato troppo raccapricciante la storia, quindi ha immediatamente detto di no. Alla fine, Jodie Foster mi ha veramente toccato con la sua insistenza, la sua passione, la sua tenacia per interpretare questa parte. E Rivedendo il film qui al Parco Sempione mi rendo conto che lei è veramente straordinaria ed è un peccato che sia sempre il dottor Lecter a prendersi tutto il merito per il film, perché il cuore del Silenzio degli Innocenti è il ruolo interpretato da Jodie Foster, che è veramente magnifica. Prima regola, Clarisse, semplicità. Leggi Marco Aurelio, di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé, qual è la sua natura, che cosa fa quest'uomo che cerchi. Uccidere donne. No, desidera. Questo è nella sua natura. E beh, insomma, questo è davvero un dialogo d'antologia. Anthony Hopkins, Jodie Foster, Il silenzio degli innocenti. Jonathan Demme, come abbiamo detto, ci parla anche del suo futuro, che prevede già, dopo il film su Neil Young, prevede già un paio di progetti in avanzato stato di produzione. Il primo è un film d'animazione. Data la varietà della sua filmografia, non poteva mancare anche un excursus in questo territorio. Sentiamocelo raccontare. The animated movie will be... it's a response to the material. L'idea dell'animazione è stata una reazione venuta dal materiale da cui voglio trarre questo film. Il libro si chiama Zeytun, di Dave Eggers, ed è stato pubblicato anche in Italia. È un libro meraviglioso che parla della vera storia di una famiglia musulmana di New Orleans che ha vissuto la tragedia dell'uragano Katrina e delle alluvioni. La storia parla appunto dell'eroismo di Zeytun, che dà il titolo al libro, un uomo che ha soccorso e salvato molte persone vittime dell'uragano, ma che si è trovato poi confinato in un centro di detenzione della Louisiana, simile a Guantanamo per molti aspetti. Questa quindi è stata l'idea per il film. Quando poi ho deciso veramente di girarlo, mi sono reso conto che l'idea di finzione avrebbe richiesto un budget di centinaia di milioni di dollari e soprattutto rischiava di diventare il classico disaster movie, che non era proprio l'approccio che io volevo dare al film. E allora ho parlato con Dave Eggers, l'autore del libro, proponendogli di fare un film d'animazione, e lui ha convenuto con me che sarebbe stato perfetto. Sto già lavorando con un animatore e l'idea è quella di iniziare la produzione nei prossimi 6 mesi. Non mi sarei mai immaginato un giorno di dover girare un film d'animazione, pur essendone un appassionato, però ora si è presentata l'occasione. Siamo qui riuniti per celebrare l'amore. Puro e semplice. Rachel è pura, Sidney è semplice. Tesoro, non fumare. Io non credo che... Puoi fumare qui? Sì, sì. Tutti quanti a casa mi guardano come se fossi una sociopatica. Insomma, cosa avete paura che faccia? Che gli affuoca la casa? Quello fu un materasso. Ok, sapete cosa? Va bene. Voi non state seduti lì per il resto della mia vita a decidere quello che dovrei essere. Questo era lo sfogo di Anne Hathaway in Rachel sta per sposarsi, l'ultimo film in ordine cronologico di finzione firmato Jonathan Demme. E noi andiamo a quello prossimo di finzione, andiamo a Stephen King, una coppiata che veramente promette di essere dirompente. Qual è il progetto? Qual è il libro che ci sta alle spalle? Sentiamo. Ok, Stephen King, this book is coming out in America. L'ultimo libro di Stephen King non è stato pubblicato negli Stati Uniti, dove verrà pubblicato il prossimo novembre. Non so in Italia quando lo sarà, probabilmente verrà pubblicato contemporaneamente. Si intitolerà 11-22-63 ed è la storia di un viaggio nel tempo che compie un insegnante d'inglese che decide di tornare nel 1959 allo scopo di impedire l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Non posso dire altro perché il libro è ancora inedito, però posso anticiparvi che il passato sarà tenace e non si lascerà cambiare così facilmente, e da qui scaturiranno le classiche situazioni alla Stephen King. Sto lavorando proprio con Stephen alla sceneggiatura, poi eventualmente si lavorerà alla scelta degli attori. L'unica cosa che posso dire in più è che l'insegnante è un uomo che si innamorerà di una donna che conoscerà nel passato, e questi sono purtroppo gli inconvenienti dei viaggi nel tempo. Difficulties that the past presents him with. Le parole di Jonathan Demme, i suoi progetti, non vediamo l'ora davvero di vederlo, questo film tratto da un libro che ancora deve uscire di Stephen King, alla Rosa Purpurea, il grande Jonathan Demme. E a questo punto noi giochiamo, perché non ci siamo dimenticati di farlo, sentiamo la seconda traccia del DVD game di oggi. Quella lì va forte, eh? È già innamorata. Ah, è innamorata, eh? E tu come lo sai? Lo so, gli occhi, caro mio, non mentono mai. quarta parte del nostro programma, che come sempre entra nei territori delle visioni domestiche, dei film da vedere a casa per la prima volta oppure per riscoprirli come sempre gratuitamente sulle vostre TV. Noi cominciamo con una proposta di Iris. È un film che mi è sempre stato molto caro, l'ho sempre amato molto, e il film era L'uomo dei sogni. Ne parliamo come sempre con gli amici di Film TV. Giulio San Giorgio in collegamento con noi. Ciao Giulio, dici tutto. Ciao Franco, sì, questa settimana iniziamo a segnalare L'uomo dei sogni con Kevin Costner, martedì alle 21.10 su Iris, figlio di un giocatore di baseball, una voce che lo spinge a ricavare in una distesa di mais un campo di baseball, appunto, per fare ritornare in vita un campione del passato. L'uomo ipoteca la sua fattoria, costruisce il diamante, nonostante tutti lo denigrino, la magia riesce, Ray, il protagonista, riesce a giocare addirittura con suo padre. Un'elegia del sogno solida e affascinante, innestata nel mito americano e sospesa in un onirismo malinconico che è un luogo dove l'illusione può distruggere il materialismo di stampo capitalista. E questo insomma un po' il senso, diciamo, del film, che va un po' oltre quella che è la sua trama e il suo racconto. L'uomo dei sogni, Iris, martedì 27 settembre 21.10. Abbiamo detto nelle sale La pelle che abito di Almodovar, ebbene su Cielo sabato prossimo c'è Tutto su mia madre. Esattamente, Tutto su mia madre, film con cui Almodovar ha vinto un Oscar per il miglior film straniero, una madre alla ricerca del padre di suo figlio morto investito, un padre che nel frattempo ha cambiato sesso, è il primo esempio di un Almodovar che sposa forme diciamo più classiche in un melò comunque ad alto tasso di lacrime, meravigliosamente inverosimile, tutto al femminile, un film che attinge a Cassavitis e a Mankiewicz, omaggia a Tennessee Williams e Douglas Sirk, omaggia a Gina Rowlands e Bette Davis, ed è un film assolutamente universale. E allora Tutto su mia madre di Pedro Almodovar, Cielo, sabato 1 ottobre ore 21. Grazie a Giulio San Giorgio e appuntamento la prossima settimana con i consigli di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Oh, eccoci arrivati allora alla terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi che dovete indovinare. Sentiamo. In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. È per questo che bisogna muoversi. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Diteci di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film, come sempre con il vostro indirizzo di corrispondenza ordinaria allegato. Noi vi sveleremo la prossima settimana di che film si tratta e chi ha vinto, come facciamo adesso col game di 7 giorni fa. Che razza di criminale guida una Prius? Uno socialmente responsabile? Ce ne sono oltre 1.000 immatricolate in città e 7.000 nello Stato. Quante immatricolate da delinquenti? 6 nello Stato, 4 da malversatori, criminali dal colletto bianco, una da uno stupratore, una da un'assassina. Comincia con l'assassina. Beh, bellissima questa clip di The Next Three Days. Era questo il film con il quale avevamo giocato la scorsa settimana e i vincitori sono Yuri Perrini di Viterbo e Matteo Porrino di Parigi, niente meno. La Rosa Purpura si spinge oltre i confini dell'Alpe e arriva fino a Parigi. Ovviamente lo streaming permette questi miracoli da sempre. E allora, questi sono i nostri ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di The Next Three Days, che ci facciamo raccontare dal nostro Claudio Pofi. Ci sei? Sì, ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. L'edizione doppio disco DVD, ma soprattutto Blu-ray da parte di Medusa Film Home Entertainment è notevole, c'è cioè veramente un'ottima qualità di insieme. Attenzione perché come al solito il Blu-ray offre in più l'audio DTS ad alta risoluzione, in italiano e in inglese, sono entrambi ovviamente di eccezionale qualità. Ci sono degli extra molto interessanti, tra tutti segnalo il commento dei filmmaker, ci sono immagini dietro le quinte, scene inedite estese, ma attenzione che è presente anche un capitolo dedicato a veri criminali in fuga per gli Stati Uniti. Magari su una Prius, come diceva la clip che abbiamo fatto sentire. Allora andiamo avanti con le recensioni invece di questa settimana, le novità che arrivano in un video e cominciamo con Faster. Nel libro Il Profeta, Khalil Gibran scrive del bene e del male. Del bene che in voi posso parlare, ma non del male. Siete buoni quando siete in armonia con voi stessi. Non augurerei a nessuno di passare quello che hai passato qui dentro, ma sei sopravvissuto. Non sei andato a cercare guai, ma non ti sei neanche tirato indietro. Scontati 10 anni di durissima prigione, un istante dopo essere stato scarcerato, un uomo inizia a correre prima a piedi e poi raggiunge un'auto che lo attende da tempo. Al suo interno un'arma e le informazioni per rintracciare tutti i componenti di una banda che trucidò suo fratello e iniziare così una spietata vendetta. Sulle sue tracce un vecchio poliziotto tossicodipendente prossimo alla pensione che con una collega tenterà di arrestarlo, ma c'è anche un sicario col compito di eliminarlo. Da regista di Man of Honor, L'onore degli uomini, un iperbolico revenge movie fatto di poche parole, adrenalinico e iperviolento con l'ex giocatore di football e wrestler Dwayne Johnson. Da Sony Pictures Home Entertainment l'uscita DVD, c'è anche il Blu-ray, sono entrambi di ottima qualità. Sicuramente il Blu-ray non penalizza l'originale fotografia del film e offre in più l'audio DTS ad alta risoluzione anche in italiano. Come extra segnaliamo focus sul cast e un interessante approfondimento sulle auto e numerose sequenze di stunt. Cast dove tra l'altro campeggiano personaggi importanti come Billy Bob Thornton, Tom Berenger, Re di Vivo e la sempre bella Carla Gugino. Andiamo invece a un super classico, che dire, quando si parla di colazione da Tiffany non si può aggiungere altro, è quasi un brand nella storia del cinema, che arriva in Blu-ray, sentiamo. Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafone. Beh, hai ragione, ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa. Aspetterò. No, voglio farti un regalo. Tu mi hai regalato il nastro per la macchina, no? Ah, certo, ma Tiffany è piuttosto caro però. Ho il mio assegno e altri $10. Holly sogna di vivere nel lusso più sfrenato e di entrare a fare shopping nell'amata gioielleria Tiffany, ma la sua esistenza a New York è di tutt'altra misura, facendo la prostituta d'alto bordo. Incontra Paul, uno scrittore di pochi mezzi che spera di firmare il romanzo di successo. L'amore per il denaro lascerà lentamente spazio ai sentimenti, ma per Holly fare la scelta di una vita non sarà affatto facile. Edizione per il 50° anniversario della commedia che iconizzò la bellezza e signorilità della splendida Audrey Hepburn, da Universal Home Video il Blu-ray superiore per qualità al DVD. Però attenzione, perché gli appassionati più attenti sicuramente non gioiranno scoprendo che il formato immagini del film è prossimo, anche se non identico all'originale. C'è un po' di grana, l'audio è monofonico, originale dell'epoca, qualcosa meglio l'inglese DTS rielaborato. Tra gli extra segnaliamo il commento del produttore Richard Shepard, un making off, ma molto divertente c'è la reunion degli attori e delle comparse che parteciparono al party presente nel film. Una curiosità su questo film: sapete che i titoli originali vengono tradotti, insomma dappertutto è diventato colazione da Tiffany, un po' in tutte le lingue il suo originale è Breakfast at Tiffany's. Bene, i francesi sono riusciti a chiamarlo Diamant sur Canapé, ecco, questo un po' vi dice molto della Francia cinematografica. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E noi siamo arrivati alla fine della nostra corsa, della nostra ora settimanale di cinema, come sempre volata via. Appuntamento alla prossima settimana, il sabato alle 18, la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.